Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Mighty FM. Chi vi parla, come sempre, Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Bologna, e siamo qui dopo una breve pausa personale e vacanziera per parlare di uno degli eventi che costelleranno la nostra primavera e estate, tutta piena di festival. Già abbiamo fatto molti speciali sull'Elita, su Spring Attitude, che inizia proprio stasera al Maxi di Roma, e noi ci saremo, magia, e al Primavera Sound Porto, che seguirà tra un paio di settimane. E siamo qui per questo evento che è stato annunciato a sorpresa il 20 aprile. Si tratta dell'Astro Festival, un nome non a caso perché nel contesto di Ferrara Sotto le Stelle, festival che è giunto ormai alla 21esima edizione, in attività dal 1996, e il primo appuntamento sarà appunto questa serata, il 16 giugno, giovedì, Astro e Stelle, perché di stelle della musica elettronica contemporanea si parla e ne parleremo e ascolteremo nella prossima ora qui a Mighty FM. Ricordo, si tratta di giovedì 16 giugno, 35 euro l'ingresso più diritti di prevendita, o alla porta tra virgolette, porta del castello, vicino al castello, 40 euro, perché gli spazi sono quelli di Piazza Castello e del cortile del Castello Estense, dove si esibiranno Caribou, Fortet, Floating Points, Junior Boys, Jolly Mare e Populus. Alcuni sono delle vecchie conoscenze, come abbiamo scritto nella nostra presentazione, alcuni sono personaggi che diciamo si stanno affollando ultimamente le nostre trasmissioni. Pensiamo a Caribou nel suo alias Daphne. Diciamo Caribou è più un progetto di una band, mentre Daphne è un po' più il suo progetto personale, e soprattutto Floating Points, l'abbiamo ascoltato praticamente tutto il suo bellissimo album di debutto Elenia, uscito a novembre proprio in occasione del suo concerto, oppure al contrario, cioè in occasione dell'uscita dell'album ci fu il suo concerto al Teatro Carignano a Torino. Ma appunto, cominciando con i grandi nomi di questo festival, c'è appunto Dan Snaith, l'abbiamo detto tante volte, matematico, laureato, dottorato, suo padre, sua sorella, e questo pezzo che sentiamo in sottofondo lo ascolteremo due volte, perché in questa prima ci parlerò sopra e dirò che questo pezzo è Julia Brightly, dell'album Our Love del 2014, è che io non sapevo, se non casualmente ultimamente, che Julia Brightly non era un nome di fantasia, ma una persona in carne e ossa, una persona che è morta a maggio del 2014. Our Love è uscito nell'ottobre 2014, e si trattava di una donna, ingegnere del suono dal vivo, quindi diremmo appunto tecnica del suono per i live, che ha lavorato con tantissime band e ha lavorato per 10 anni praticamente con Caribou, come ha lavorato anche con gli MT3, con tanti altri nomi. Infatti anche hanno espresso il loro cordoglio al Tomorrow's Parties e tante altre realtà, hanno anche fatto delle serate in sua memoria. Gli MT3, Mogwai, Caribou, Knife, sono questi i nomi per cui ha lavorato. Fuck Buttons, Slint, ma era una persona super creativa, ha fatto 6 album, ha scritto dei libri, c'è il suo sito Julia Brightly, ancora consultabile, dove si possono vedere tutte le sezioni, albums, books, articles, radio, drawing, painting, film, photography. Insomma, una donna che ha avuto una grande carriera, era molto molto apprezzata, e purtroppo è morta per una forma molto aggressiva di tumore che evidentemente l'ha portata via in pochissimo tempo, ed è stato appunto a lei che Caribou ha voluto dedicare questo album. Ho trovato anche un post sulla loro pagina. Julia Brightly, la nostra cara amica, ingegnere del suono nell'ultimo decennio, è venuta a mancare ieri, era una delle più coraggiose persone che abbiamo mai conosciuto. Ci mancherà sempre il nostro amore Dan, Brad, John e Ryan. E finisce così Julia Brightly, un omaggio di due minuti contenuto in Our Love, fortunatissimo album di Caribou, come dicevo più un progetto corale di una band, infatti anche la stessa loro sistemazione sul palco, sono in circolo, si guardano, è come se suonassero veramente tutti insieme come una cosa sola, Brad Weber, John Smersal, Ryan Smith e ovviamente Dan Snaith. Un altro nome, uno dei più grandi nomi, insomma, headliners di questo festival di una sola giornata, Astro Festival, giovedì 16 giugno a Ferrara, segnatevelo nel calendario, è un carissimo amico personale di Dan Snaith, ovvero Kieran Ebden, ovvero Fortet. Questa è la 11ª volta che l'ascoltiamo qui a Might FM, di riff o di raffa, cominciamo a vederlo e sentirlo nel secolo scorso, no, era già questo secolo, non esageriamo, a Benny Cassim, e l'abbiamo visto dal vivo una miriade di volte. Sia nel caso di Caribou che nel caso di Fortet si tratta dell'unica data italiana per questa stagione, Caribou live, Fortet DJ set, l'abbiamo visto l'ultima volta sempre in veste di DJ, credo, al Club to Club, quando lui finì il suo slot puntualissimo per fare spazio ad un'ora estenuante di preparazione palco per la star della serata, che ovviamente era Thom Yorke, ma secondo me durante i festival non dovrebbe essere, insomma, permesso di avere così tanti ritardi. A parte queste polemiche personali, le ultime pubblicazioni di Fortet risale al 2015, era praticamente un EP di due tracce, Morning Evening, Morning Side, Evening Side, di un 18-20 minuti, e adesso stiamo ascoltando un piccolo estratto di 5 minuti del Morning Side Fortet. Piccola nota biografica, ritorna alla musica indiana, lui è di discendenza indiana da parte di madre, pur essendo inglesissimo ovviamente, ma indiano del Sudafrica, forse la gente non lo sa, ma il gruppo razziale sociale indiano era una delle quattro categorie ufficialmente riconosciute e controllate dal regime dell'apartheid, e lo so che non ve ne può fregare di meno, ma proprio questa comunità indiana nel Sudafrica era stato l'oggetto della mia tesi di laurea mai compiuta. Fortet, Kieran Ebden, uno dei nomi principali dell'Astro Festival, appunto essendo comunque pochi i nomi Ascolteremo due pezzi per ogni artista. Questo era un estratto di Morningside, la metà di quello che comunque nella sua discografia viene considerato un vero e proprio album, il suo ottavo album, Morning / Evening. E non so che studi abbia fatto Fortet, ma mi sembra che oltre ad essere un insieme di stelle della musica, si tratta anche appunto dell'intelligenza, dei cervelloni, non solo per la perizia tecnica e per il fatto di essere un attimo sopra il livello degli altri loro contemporanei, per proprio tutto un lavoro anche di concetto, di pensiero, di ricerca. Di non fare insomma una musica da club che si dà, che si balla e basta, ma da contraddistinguersi per avere tutti i partecipanti a questo festival un grande gusto personale, come è quello di Floating Points. Dicevo, non so che studi abbia fatto Fortet, ma sembra che siano più o meno tutti cervelloni scienziati, partendo da Dance Night, matematico, e l'inglese giovane pallidino Sam Shepherd, l'abbiamo detto, neuroscienziato, di riffa o di raffa in questa stagione abbiamo sentito praticamente tutto il suo album, la puntata di Club to Club, la puntata dell'Elita, perché era presente lì con Dan Snate nelle vesti di Daphne per i loro famosissimi set di 4 ore back to back, dove si alterna jazz, tropical, funky, disco. La puntata è dedicata al Primavera Sound Festival, dove finalmente lo vedremo, prima di vederlo di nuovo a Ferrara, lo vedremo col suo ensemble di 16 elementi, si spera, o comunque non in veste di selecta, ma in veste di musicista che eseguirà la propria musica, come fu peraltro nel già citato concerto di debutto. Proprio l'orario era 23:59 al Teatro Carignano di Torino, perché l'uscita ufficiale dell'album era appunto il giorno dopo, insomma allo scoccare della mezzanotte. Abbiamo sentito praticamente tutti i pezzi dell'album, quello che mancava era Silhouette, tra parentesi 1, 2 e 3, e ho deciso di spezzarlo simpaticamente in due. Adesso stiamo ascoltando la prima metà. Floating Points alias Sam Shepherd, uno dei grandi nomi che popoleranno la serata di Astro Festival. 35 euro più diritti di prevendita o 40 all'ingresso la sera stessa. Piazza Castello e il cortile del Castello Estense, cornici indimenticabili, abbiamo visto veramente dei grandissimi concerti, ricordo i Radiohead, uno a caso, ma anche tante cose più piccole, anche un concerto dei Mum, che ci siamo rifugiati nella parte coperta del cortile perché pioveva. Sempre un'offerta molto molto interessante, molto raffinata. Il primo appuntamento sarà questo Astro Festival, sarà seguito poi dal 29 giugno dal live di Glenn Hansard, il 30 i Cani più Cosmo, 4 luglio Wilco e Kurt Weill and the Violators, 5 luglio The Last Shadow Puppets e Yak, 6 luglio Mogwai Play Atomic. E come ho scritto nella presentazione di questa puntata, una super new entry invece a Mighty FM è quella dei Junior Boys, perché non abbiamo mai passato un loro pezzo, anche perché Mighty FM è iniziata nel 2010 e loro hanno fatto un album nel 2011, e 5 anni di silenzio fino a questo ritorno alla grande all'inizio dell'anno con Big Black Coat, e questo è il pezzo di apertura, You Say That. Questo passaggio Junior Boys Astro Festival, DNA concerti, DNA Dance Department, Robot Festival, ci porteranno anche Junior Boys, che devo dire io una volta ho visto dal vivo, non mi ricordo dove, forse a Locomotive, con non molto entusiasmo. Invece sarò molto felice e avrò grandi aspettative invece all'Astro Festival. Electropop raffinato per un disco che è un po' un tributo anche alla prima house per questo duo canadese di Hamilton, Ontario, anche loro amici di Caribou. Tra l'altro, curiosità, proprio la cittadina dove è nato Caribou adesso fa parte proprio del distretto della città di Hamilton, da cui vengono i Junior Boys, in attività dal 99. Jeremy Greenspan e Johnny Dark all'inizio hanno fatto un po' fatica per farsi notare, registrarono alla fine un demo nel 2002, vennero finalmente notati. Johnny Dark si era stancato, nel frattempo aveva lasciato questo progetto, e quindi Jeremy ha dovuto trovare qualcuno che lo affiancasse per fare nuova musica. È stato proprio l'ingegnere del suono con cui avevano fatto il primo demo, ovvero Matt Didemus, non ho proprio idea di come si possa pronunciare questo nome. Quindi a livello di amicizia, collaborazioni, etichetta, provenienza, siamo un grande meeting di famiglia, come Fortet amicissimo di Dan Snaith, come Junior Boys e Jeremy Greenspan. Comunque in questi 5 anni tra gli ultimi 2 album ha lavorato su musica di Caribou e di Jesse Lanza, che è andata precedentemente in tour con Caribou, e lei la vedremo allo Spring Attitude questo weekend. E il pezzo finisce così, con un attacco di tosse che forse l'ha portato quasi a strozzarsi. Jeremy Greenspan tronca così il pezzo di apertura di Big Black Coat. Ne parleremo ancora di questo album e del suo contenuto, del suo significato. Questo era You Say That, il pezzo di apertura. Ma passiamo ad un nome che diciamo il mondo un po' ci invidia, il nuovo araldo della Italo Disco, the new face of Italian Disco, ovvero Fabrizio Martina from Novoli, provincia di Lecce, ovvero Jolly Mare. E questo è il pezzo Hotel Riviera, con la voce di Lucia Manca, dove però in realtà canta lui anche insieme all'unisono, contenuto nel suo finalmente album di debutto Mechanics. La citazione morriconiana. Tornando al discorso dei cervelloni tecnici, lo stesso Fabrizio Martina Jolly Mare è laureato in ingegneria meccanica, ha un dottorato in dinamica delle vibrazioni e ha chiamato il suo album Mechanics. E l'ambiente della musica, insomma degli addetti ai lavori che contano, si è accorta di Fabrizio Jolly Mare, che ha partecipato alla Red Bull Music Academy di New York nel 2013, dove uno dei tutor era Thundercat, per esempio. E anche questo suo album, che è pubblicato per la 42 Records in versione CD e download, invece in versione vinile è pubblicato dalla Bastard Jazz di New York. Insomma, grandi riconoscimenti per un musicista che si rifà alla musica italiana, alla musica pop italiana degli anni 70-80, si è anche dedicato a fare quelli che lui chiama lifting, ovvero aggiungere suoni e frequenze e bassi, perché ai tempi non c'erano i mezzi tecnici per farlo, a dei classici della musica italiana, pezzi di Vasco Rossi, come A me mi piace blues di Pino Daniele, anche Piero Umiliani. Un disco che si basa sullo studio della meccanica del groove, questo concetto del groove che lui spiega benissimo, anche vabbè, termini tecnici di settore, però insomma riesce a farsi capire in una bellissima intervista che ho trovato su Soundwall. Ma ne parleremo ancora nel secondo pezzo che sentiremo di Jolly Mare. E sempre da Lusalentu, poppitano, poppito che dir si voglia, Andrea Mangia, Populus, c'è anche lui, Jolly Mare live, Populus DJ set, una delle ultime pubblicazioni a suo nome, è una collaborazione con lo statunitense San Francisco Eric Stoyer. Si tratta di un 7 pollici uscito nel gennaio 2007 per l'etichetta romana Bad Panda Records. Si tratta di End For Sure. For Sure, Populus and Eric Stoyer, e non, come ho visto, anche Populus featuring Eric Stoyer. È proprio una collaborazione 50%, dove Populus ha fornito le basi che peraltro ricordano uno dei pezzi più belli del suo fortunato Night Safari, ovvero il mio pezzo preferito, Dead Sea. Ho avuto anche occasione di dirglielo e di esprimere tutta la mia, il mio gradimento, la mia ammirazione per quel pezzo. For Sure, un pezzo languido, torrido come le temperature delle aree geografiche che adesso frequenta, che sia il Sud America, lo stile Kuduro Afro Brasil, che esprime al massimo i suoi DJ set indiavolati, come l'abbiamo sentito anche all'Indie Pride contro l'omofobia qui al TPO a Bologna, o che sia appunto la musica del continente africano insieme a Clap Clap, insomma dei grandi esponenti della popolarizzazione di questa musica. Tra l'altro Night Safari è uscita anche la versione remix, expanded anche questa, remix di diversi pezzi dell'album, e la title track rifatta non a caso da John Wizards, musicista bianco sudafricano. Ma torniamo, abbiamo finito il giro, torniamo da Caribou Dance Nate. Appunto, avevo anticipato la dicitura dell'album Our Love Expanded Edition, che è uscito un po' di mesi dopo, dall'ottobre 2014, poi a primavera del 2015 è uscita questa versione dell'album con tutti i remix dei pezzi, e c'era Mars in due versioni, la versione della Heads High, Head High's Core Remix e Head High's Venus Remix, dove Head High è René Pavlovitz, che da quel che ho letto sembra che il suo modus operandi sia sempre di fare due versioni di un pezzo, una diciamo danzereccia esplosiva in quattro quarti e l'altra invece di fare un rework breakbeat. Noi penso che abbiamo scelto quella forse più bombastica, Core Remix. We'll be right back. Caribou Live, unica data italiana, giovedì 16 giugno, Astro Festival. Non potete sbagliarvi, basta che arrivate in centro a Ferrara, piazza Castello, cortile del cartello, castello del cartello, seguite i cartelli per il castello, troverete anche il cortile del castello Estense vicino a piazza Castello. Caribou, ovvero progetto di gruppo ma guidato, creato di base da Dan Snaith, che ultimamente abbiamo visto spesso e che tempo fa, qualche anno, quando appunto era nel backstage insieme a Kieran Ebden, e io chiesi: ma quando è che voi fate un pezzo insieme, visto che siete tanto amici? E loro hanno detto: no, noi quando stiamo insieme preferiamo rilassarci, fare i picnic, le gite, giocare con i bambini, eccetera eccetera. In quell'occasione fecero una cosiddetta ID, ovvero quando tu impezzi qualcuno dicendo: scusa, per favore, potresti dirmi sono Pinco Pallo e questa è Radio Kairos? Io l'ho fatto fare a un sacco di gente, però purtroppo per pigrizia ho trasformato in jingle che si sentono ogni tanto qui nella radio solo un paio, alla fine due o tre, e uno di questi è appunto quello di Caribou, e sono molto orgogliosa. Tipo, avrei potuto anche fare quello di Fortet, visto che l'hanno registrato uno di seguito all'altro. Ma vabbè, chi ci conosce sa che Might FM è una trasmissione ovviamente individuale, personale, autoironica e autoreferenziale. Claudia Mighty Mau, me, myself and I, dico sempre, insomma, noi della redazione, che ci dedichiamo a fare queste puntate monografiche di presentazione, illustrazione e, si spera, di invogliamento, invogliatura alla gente ad andare a partecipare, a condividere con noi, con la stessa gioia con cui noi partecipiamo e andiamo, energie permettendo, in tutte le rassegne che possiamo. Infatti adesso, da stasera a Roma e poi al Primavera e poi all'Astro Festival e poi una giornata della live ancora di Lisbona, siamo tornati a un brano tratto dalla seconda metà dell'album Morning Evening, ovvero Evening, Fortet. E la storia di questo album è che da bambino Kieran aveva ereditato una collezione di album, immagino cassette, chissà, di musica devozionale religiosa indù, ereditata, lasciatagli da suo nonno, ma non aveva mai ascoltata finché non è morta invece la sua nonna materna, quindi la parte indiana, ovviamente, proprio durante la lavorazione, quando stava appunto preparando, facendo l'album del 2013 Beautiful Rewind. Quindi, dopo aver campionato la voce della cantante specializzata nei playback, si sa, no? Anche i film di Bollywood, gli attori fanno finta di cantare, invece sono dei cantanti anche molto famosi per questo lavoro che cantano invece le canzoni. La cantante in questione è Lata Mangeshkar. Dopo aver appunto campionato la voce di questa cantante, Kieran ha avuto quest'idea di fare un disco che avesse una struttura simile a quella della musica indiana, in particolare la musica raga, e ha deciso appunto di separare questa traccia di 40 minuti in un lato mattutino e un lato serale, e questo è quello serale. e ci immaginiamo il crepuscolo con questi suoni, gli ultimi bagliori del giorno, del sole che se ne vanno, magari qualche luce, qualche lampione che comincia ad accendersi. Ovviamente quando degli artisti partecipano a delle rassegne, dei festival, investe i DJ set, noi comunque non è che ho pensato di mettere un pezzo della Boiler Room di Fortet, ma comunque quella che è la loro produzione, anche nel caso del back to back DJ set di Floating Points, ho messo i pezzi del suo album, comunque per dare l'idea del gusto, soprattutto, come dicevo, l'intelligenza e la creme della creme dei musicisti, che non solo si contraddistinguono per un'enorme, grandissima perizia proprio tecnica nel costruire i loro lavori, ma anche appunto per avere un gusto molto molto raffinato. E infatti torniamo al free jazz di Sam Shepherd, che riparte con la seconda metà della espansiva ed ariosa quasi 11 minuti Silhouettes 1, 2 e 3. E invece, invece speriamo che Floating Points e il suo gruppo, chissà se sarà l'ensemble di 16 elementi, che è stato anche premiato appunto come gruppo musicale, come ensemble musicale, ha vinto il premio per il Best BBC Radio 1 Maida Vale Session. Come abbiamo detto, è un neuroscienziato e tra l'altro ha ottenuto anche un dottorato anche in epigenetica, che scopro essere una branca ovviamente della genetica, e studi musicali anche pianoforte al Chatham School of Music, Sam Shepard, in arte Floating Points. Una delle stelle di Astro Festival, ricordiamo, grazie alla congiuntura delle forze di 3D DNA Dance Department, DNA Concerti e Robot Festival, una serata stellare nell'ambito, anzi proprio come serata inaugurale della 21esima edizione di Ferrara Sotto le Stelle, giovedì 16 giugno a Ferrara. E finisce Silhouettes 1, 2 e 3, abbiamo praticamente fatto sentire in questa stagione tutto il bellissimo album Elenia di Floating Points in una trasmissione, penso quella del Primavera Sound, abbiamo fatto in uno dei nostri mix casalinghi con tre pezzi contenuti nell'album, abbiamo rifatto appunto il giro e siamo tornati ai Junior Boys con un altro dei pezzi che ci è piaciuto di più, M&P, lettere maiuscole. Un altro pezzo tratto da Big Black Coat, che ha ottenuto una media di Metacritic, una risorsa online a cui spesso ci rivolgiamo, di 80, un bel 8 tondo tondo, come è stato anche il voto datogli da Pitchfork. È molto bella anche appunto la title track Big Black Coat. Come abbiamo detto, primo album dopo 5 anni di pausa, è un passaggio dalla Domino, con cui avevano pubblicato tutti i loro album a partire dal primo ufficiale del 2004, Last Exit, fino a questo pubblicato invece per la City Slang. E il concetto dietro questo disco viene spiegato da Jeremy Greenspan, che dice: tutte le canzoni sono su quei tipi che ho visto in centro, in giro, in città, che erano da soli e che camminavano, andavano in giro da soli, un po' soli, sconsolati. Volevo dare loro una voce e le canzoni parlano appunto di questi tipi che sono frustrati a causa della loro vita emotiva, sono frustrati dalle donne, frustrati da tutto quanto. Quindi il cappotto, questo grande cappotto nero, diventa una metafora e un'analogia che è come un modo per isolarti dalla durezza, dalla sprezza dell'inverno canadese, e è piuttosto desolato, squallido, bleak. Sarà anche desolato, ma è molto danzerino, molto piacevole. electronic techno pop. Addirittura la definizione di Wikipedia, electro pop, come dicevo, anche molto debitore della prima techno, della prima house. Torniamo a Jolly Mare, ovvero Fabrizio Martina. Dicevamo prima del concetto del groove che permea tutto il suo lavoro. Mechanics è un riferimento molto forte alla musica italiana anni 60-70. Lui dice sì, vengono sempre fatti dei paragoni con i grandi nomi della musica italiana. Viene sempre citato Lucio Battisti, Mina, Loredana Bertè, Mattia Bazzari, Van Graziani, Franco Califano. Ok, dice lui, c'è tutto questo dentro la mia musica, però c'è tutto questo e altro ancora messo insieme. Se stai mettendo dentro la tua musica tutte queste influenze, non stai più emulando qualcuno, ma facendo qualcosa di originale. E stiamo ascoltando un altro pezzo tratto da questo libro, infatti, certo, da questo disco, ovvero Temper. Un bel edit di Temper. Tra l'altro il pezzo di prima, Hotel Riviera, è stato anche inserito nella rotazione musicale palinsesto di BBC Radio 1 da Gilles Peterson, quindi insomma un grande riconoscimento anche all'estero. Dei suoi lifting ne abbiamo parlato prima e del concetto di groove, un po' difficile da spiegare, avendo lui studiato fisica del suono. Anzi, mi correggo, dinamica delle vibrazioni, scusate. Tra l'altro l'album è tutto suonato, tutto registrato in analogico, e la sua definizione di groove. Quando si studia la meccanica si affronta prima di tutto la statica, poi si passa alla cinematica, vale a dire che è un meccanismo all'interno del quale non ci sono le forze, lo studi per vedere come reagisci. Se poi vengono applicate anche le forze, quindi le inerzie e gli attriti, ecco che si crea il groove. È l'irregolarità nella regolarità della cinematica, è il pendolo che, arrivato a fine corso, si ferma un attimo prima di tornare indietro. E quello che fa la musica nella sua totalità è questa interazione, unione del groove, che è l'emozione, la sensazione fisica, che poi si unisce allo stato emozionale che viene richiamato dalle armonie, dalle voci, dalla parte più melodica dei pezzi, questi due elementi come se fossero una dimensione orizzontale e una verticale che entrano in risonanza e danno forma alla musica, alla mia musica, dice Fabrizio Martina, e sta finendo Temper. E lui si esibirà, come abbiamo detto, in versione live. L'avevamo già visto, lo Spring Attitude, l'avevamo visto forse anche a Robot, mi ricordo un'intervista, un incontro intervista tra Fabrizio Giollimare e il mitico Dami Rivic a Robot, a Palazzo Renzo, credo. E siamo arrivati in fine di trasmissione, chiudiamo ancora con Andrea Mangia in Arte Populus, una delle sue altre ultime pubblicazioni oltre alla collaborazione con Eric Stower. È questo pezzo pubblicato dall'etichetta fiorentina Voodoo Rebel per un progetto, credo, che si chiama Senegambia, a cui Populus evidentemente ha contribuito con un pezzo che si chiama Cololi Under the Moon, che è stato diffuso all'inizio del mese. Cololi Under the Moon, Populus, ultimo nome presente in veste di Selecta DJ a Astro Festival. Accorrete numerosi, 40 euro spesi bene. Colgo l'occasione per ringraziare Anna Chiara Pipino dell'ufficio stampa della DNA Concerti, organizzatore insieme al Dance Department e Robot Festival di questa serata delle grandi stelle del firmamento della musica elettronica contemporanea. Chi vi ha illustrato tutta la questione è stata, come sempre, Claudia Mighty Mau. Ci vediamo a Ferrara e a tutti gli altri festival dove potremo incontrarci. Ciao.